Ciao Maria Catlinga, dummie dummie na si assa. Si sigla da ria, lei la sal si assa ca. Frise coie taiarin, guarda un po' come va l'ubin. Paluti ding, le paesanote che le tote a turin. Oh bundi, bundi, ancora una volta, ancora una volta. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta e per io papì. Ancora una volta, su tutta la porta, ancora una via, su tutta la riva. Oh bundi, bundi, bundi. Cosa fa Maria Catlinga l'insetan sal taburet? Da una man la ventainga e dall'altra il fassulet. Piena gioia che vi pias, dei namanti nell'ambras. La curenta le pi bela e poi tra le mille là. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta, ancora una volta. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta per io papì. Ancora una volta su dalla porta, ancora una vira su dalla riva. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta per io papì. Per danse la monferinga, le rivai e l'ufficial. La ciappa Maria Catlinga, la porta la mesa al val. Fate in là tu paesan, passo mi, guarda in fa. Fammi una cambellinchi e fas un bel basin. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta, ancora una volta. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta e per io papì. Ancora una volta su dalla porta, ancora una vira su dalla riva. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta e per io papì. Maria Catlinga, dummie dummie na si assa. O se si chiglia da ria, lei la sal si assacca. Rise coie dai a ring, guarda un po' come va l'ubi. Va l'ubi bing, le paesarote che le tote a turin. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta, ancora una volta. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta e per io papì. Ancora una volta, su tutta la porta, ancora una vira, su tutta la riva. Oh bundi, bundi, bundi, ancora una volta e per io papì. Ancora una volta e per io papì.